Ladri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Si parla di padri, si parla ai padri e questo è ancora I Padri Eterni. Matteo Bussola, ciao Matteo. Ciao Federico. E Federico Taddia, due padri, ormai lo sapete, abbiamo 5 figli in 2, copriamo un sacco di fasce. Abbiamo deciso a modo nostro di affrontare questo tema che è quello dei padri. Radio24.it è come sempre da dove poter riascoltare la puntata, la nostra pagina nel sito con i contributi extra, ma anche la nostra pagina ufficiale di Facebook, dove potete trovare anche un sacco di link relativi ad argomenti che toccheremo. Beh, l'argomento di oggi ci sta particolarmente a cuore perché torniamo a scuola. Insomma, l'idea è proprio quello di affrontare quello che è il tema dei padri e la scuola in tutte le sue sfaccettature. Sì, dici bene Federico, torniamo a scuola, nel senso che ci torniamo per davvero. Questa settimana appunto c'è stato il primo giorno di scuola. Io personalmente ho avuto il primo giorno di scuola per 3 bambine di 3 età diverse e quindi c'è sempre questo happening, no, in questo giorno, mentre nel resto dell'anno, per esempio nella nostra famiglia, ci avvicendiamo con la mamma a portarle o a prenderle, il primo giorno di scuola è l'unico in cui si va tutti insieme, tutta la famiglia. Fantastico, andiamo a riviverlo il clima del primo giorno di scuola e lo facciamo con Elio. Oggi è il primo giorno di scuola. Uè mamma, oggi è il primo giorno di scuola. Il cortile è affollato e mi scappa la pupù. Sono molto emozionato, mi hanno messo in prima B. Forte la mia mano, che non sono amico di nessuno. Chi saranno i miei compagni? Quello di meglio di no, lo conosco dall'asilo e mi sta sulle palle. E c'è pure la pediculosi. E vabbè, questa è l'ironia di Elio. Tu Matteo hai fatto una triplete, no? 3 figlie in 3 ordini diversi. Sì, ho fatto 3 figlie in 3 ordini diversi, però devo dire che questo giorno si somiglia sempre. C'è questa cosa, per questo prima ti dicevo torniamo a scuola, perché siamo passati quasi da un periodo nel quale, come dire, i genitori accompagnavano i figli a scuola ad adesso che sembra quasi che siano i figli ad accompagnare a scuola noi, no? Cioè noi nel primo giorno ci sono queste fotografie, no? Stuoli di telefonini, Paola, la mia compagna, che mi diceva allontanati che mi rovini l'inquadratura, poi li accompagniamo in classe per vedere, per accertarsi che prendano il loro banco, eccetera eccetera. Mia figlia Ginevra, che è andata alla scuola elementare, a un certo punto è stata lei a dirmi: papà vai via perché indugiavo troppo a lungo. Anch'io con Edoardo, Edoardo prima superiore, prima liceo sportivo, l'ho accompagnato a scuola, anzi ho anche registrato questo momento, ascolta un po'. Dai Edo, andiamo. Dove vuoi andare? Andiamo a scuola, è il primo giorno. Beh, io vado a scuola, tu stai qua a casa, te lo sogni di venire con me. Ma no, dai, ti accompagno. Sono in prima superiore, mica puoi venire in classe. Dai, vengo, dico, salve, io sono il papà di Edoardo. Ma assolutamente, Massimo ti mando un WhatsApp. No, il cellulare in classe no. Ma come, il ministro ha sentito che ha detto che invece si può tenere. E insomma non ha proprio così accolto con piacere la mia idea, ma giustamente, insomma, 14 anni, una scuola, anche il primo giorno ci va da solo, no Matteo? Beh, ma assolutamente, ma guarda, secondo me sarebbe opportuno che ci si andasse da soli anche prima, in questo senso ricordo, insomma lo ricorderai anche tu, quando andavamo a scuola noi, anche il primo giorno, le nostre madri ci accompagnavano al cancello e forse ci davano un bacio sulla fronte e ci abbandonavano lì. Adesso invece è tutto più complesso. Ma il primo giorno è solo il primo giorno di un'annata che poi diventa anche complicata, no? Perché ci sono i colloqui, perché ci sono le riunioni di classe, perché ci sono i gruppi WhatsApp delle mamme e insomma in cui ci si infilano anche i papà, e tutto questo va incastrato con 1000 altri impegni, ed è quello di cui parleremo oggi e iniziamo a farlo con una esperta. Diamo il benvenuto a Laura Girelli, è psicanalista e autrice del libro, coautrice insieme ad Adele Mappelli del libro Genitori al lavoro, l'arte di integrare figli, lavoro e vita. Buona domenica Laura, benvenuta ai Padri Eterni. Ben trovati e molto contenta di essere con i Padri Eterni. Allora Laura, tu di Padri Eterni ne conosci, ne hai conosciuti tantissimi, sì. No? Padri spesso impegnati, padri incasinati, padri anche distratti, padri però che a modo loro vogliono esserci e la scuola è ovviamente il campo privilegiato, anche se forse uno dei più complicati, dove esserci. Quali sono le trappole in cui non cadere? Ma ascoltando il simpaticissimo avvio della trasmissione, l'avete ben detto voi. Ecco, una delle trappole della presenza genitoriale più in generale, ma proprio anche paterna, nell'ambito della scuola, è proprio quella di diventare invadenti e iperapprensivi. Proprio perché, diciamo, la presenza del padre nella vita dei figli, ma soprattutto anche in ambito scolastico, ci deve essere. Penso che non sia una perdita enorme pensare che un padre deleghi questa presenza alla madre, come anche un po', diciamo, tradizione, o è stata tradizione, quindi che i padri ci vogliano essere è un grandissimo vantaggio per tutti. La questione è in che modo, perché il padre appunto che vuole indugiare un po' troppo, che vuole iperproteggere il figlio, non è un padre che svolge fino in fondo la sua funzione. Una delle trappole è rinunciare a lasciare andare il figlio e quindi rinunciare alla sua vera formazione. No, ma è un padre invece che non riesce ad esserci, perché il giorno del colloquio dei genitori, per esempio, ha proprio una riunione importante, è un padre che deve sentirsi in colpa? Allora, intanto io penso che il senso di colpa non produca mai cose estremamente positive. Il padre a scuola deve cercare comunque di far sentire la sua presenza, quindi magari non a tutti i consigli di classe, però che prenda un po' conoscenza indiretta del contesto scolastico del figlio, questo dà a lui la possibilità di comprendere da dentro cosa sta succedendo e testimonia al figlio che questo contesto scolastico ha valore. Il problema non è esserci sempre, il problema è essere sempre disponibili con un ascolto attento. Quindi il padre che almeno una volta l'anno questi insegnanti li conosca e che svolga una funzione appunto non iperprotettiva verso il figlio, ma che gli insegni a stare nel mondo in un modo dignitoso. Ecco. Mi sembra una bellissima parola questa. Padri Eterni. Padri Eterni, continuiamo con la nostra puntata dedicata al rapporto tra i padri e la scuola. Vi ricordo che potete intervenire anche con i vostri messaggi, soprattutto via Facebook o attraverso la nostra posta elettronica padrieterni@radio24.it. Sono contenuti che poi continuiamo a discutere anche durante la settimana e diventano materiale ricchissimo per le prossime puntate. Siamo ancora in collegamento con Laura Girelli, coautrice del libro Genitori al lavoro. Laura, stiamo cercando di fare un po' un focus sul ruolo che deve avere il padre nei confronti della scuola. Vuoi darci altre dritte? Sì, io mi sentirei di concludere ricordando due cose. Che il ruolo del padre, ricordiamoci che è di essere colui che lancia i figli nel mondo, mette i figli in contatto con il mondo, e la scuola è il primo ambito in cui i nostri figli entrano effettivamente in contatto con la società. Quindi la sua presenza è assolutamente necessaria e il modo migliore per mettere i figli in contatto fiducioso con la vita e con il mondo è anche quelli di appassionarli. Appassionare un figlio alla scuola per un padre significa fargli anche sentire che l'apprendimento, lo studio, lo sforzo è gioia. Quindi padri, non ricordatevi solo della performance dei vostri figli con la domanda quanto hai preso, ma è cosa hai imparato, cosa ti ha appassionato, cosa ti ha divertito oggi, perché il padre è questo. Il padre insegna ai figli a costruirsi con la curiosità di apprendere continuamente, e questo è un ruolo preziosissimo. Sì, devo dire che io sono molto d'accordo. Trovo proprio che dal punto di vista della scuola ci sia un malinteso senso di presenza dal punto di vista dei genitori e dei padri, in particolare, che spesso diventa ingombranza. Il punto che cos'è? Che con questa nostra forma di iperprotettività, assolutamente in buona fede, rischiamo di togliere ai nostri figli la capacità di diventare responsabili, quindi di poter rispondere per sé. Finché risponderemo noi al posto loro, gli toglieremo questa opportunità. Giustissimo, siamo perfettamente d'accordo. Grazie davvero Laura, ricordiamo Genitori al Lavoro, l'arte di integrare figli, lavoro vita, Guerini Next è l'editore, e speriamo di ritrovarti qui in una delle prossime puntate dei Padri Eterni. Grazie. Ciao, buona domenica. Ciao, ciao Laura. Continuiamo a parlare del rapporto tra padri e scuola, però adesso insomma andiamo a vedere anche l'altra faccia della medaglia, è il momento di dare la voce ai docenti. Il primo docente è un docente molto particolare, interpretato da Antonio Albanese qualche anno fa, questo bellissimo personaggio che proponeva nel programma di Fabio Fazzi. Allora, sì. Colloquio con i genitori. Il colloquio con i genitori, sì, è stato uguale per tutti. Sì, per certo. Tutti i genitori lo stesso colloquio. E cioè il seguente: sì. Buongiorno, come si chiama suo figlio? Ha mai picchiato suo figlio? No. Suo figlio si droga? Suo figlio è molto dotato, ma deve applicarsi di più nello studio di Giosuè Carducci. E veniamo ai lati positivi. Il ragazzo manifesta una notevole propensione all'utilizzo delle moderne tecnologie, e la classica domanda finale. Sì. Suo figlio ha avuto un'infanzia felice? Vabbè, ho capito, ma sia calmo. Un colloquio intenso, non si scalda. Sì, ha ragione. Il primo genitore ha affrontato l'incontro con sufficiente attenzione e serenità, certo, impegnandosi a consultare gli appunti sul suo cellulare, e quindi mi ha picchiato. E questa è la scuola che non ti aspetti, ma chiediamo se sono davvero così i colloqui con i padri, e lo facciamo con Alessandro D'Avenia, scrittore e insegnante. Ciao Alessandro, buona domenica. Ciao Federico, ben trovato. Ciao Alessandro. Ti sei ritrovato in questo professore? Ma guarda, mi sono fatto due risate, perché effettivamente ogni tanto ci capita questo stato di assedio nel momento dei colloqui, però devo smontare subito il giochino, nel senso che è molto raro vedere un padre che venga a fare il colloquio del figlio. Io vedo praticamente solo madri, come se l'educazione fosse qualche cosa demandata solo al lato femminile della coppia, e già questo ci dovrebbe far riflettere. Questo ci deve far riflettere. Io sono andato per anni ai colloqui, insomma ci si divideva, no? A volte la mamma, a volte il papà, e in effetti quando arrivano i papà vedi occhi strani nei docenti, sì, questo è vero. Vedi occhi strani nei docenti e vedi occhi dolci nelle mamme, ci manca poco che sparino i mortaretti. Dipende dai papà, certamente. Quello che mi colpisce è questo, che anche le mamme lavorano, quindi l'idea che il papà, come gesto, come hai fatto tu, vada a fare il colloquio, ha innanzitutto una rilevanza grandissima per i ragazzi, perché io vedo che quando il papà prende un'ora di permesso, un'ora e mezza di permesso per fare il colloquio, sta dando un segnale fortissimo a suo figlio, gli sta dicendo: tu sei più importante del lavoro, del mio lavoro, mi posso anche prendere una pausa. E questo vale sia per la mamma che per il papà. L'optimum sai qual è? Che vengano tutti e due, perché i benedetti figli sono figli di due persone, non è che sono figli o dell'uno o dell'altro, ed è divertentissimo vedere come cominciano a volte magari a litigare perché hanno opinioni diverse sul figlio, e anche quello è utile a un docente per capire che aria tira in famiglia. Certo. Alessandra, tu insegni in un liceo a Milano, insomma avrai, sì, anche tanti papà, li definiamo incasinati, per far capire, insomma, papà che lavorano tanto, come le mamme anche che lavorano tanto, però magari papà che fanno fatica a prendere quell'ora di permesso, a volte non possono, magari per il ruolo che hanno, però ci sono papà che ci riescono invece. Sì, infatti io quello che vedo è che basta chiedere. Una cosa che chiedo da subito ai genitori dei miei ragazzi, soprattutto quando ho una classe nuova, è che almeno nel primo colloquio vengano entrambi, poi insieme decidiamo le regole per i successivi colloqui. Se riescono a venire entrambi anche per i successivi, tanto meglio, se no ci si può anche organizzare cercando di trovare dei momenti in cui anche il papà magari riesce a venire. Dico, questi colloqui non è che devono essere una specie di gabbia, uno può anche trovarsi in un bar di fronte a un caffè e insomma una pausa pranzo ce l'abbiamo tutti. Qui il punto è sempre quello: quanto ci sta a cuore veramente la crescita del ragazzo, e che il colloquio non sia una specie di schedina in cui ti dico vabbè guarda, quello che si diceva nel frammento di Albanese, ha le capacità ma non si applica, c'è bisogno di fare un colloquio per saper sentirsi dire questa cosa? Non credo che sia solo un problema di tempo che manca ai padri, credo che come giustamente diceva lui sia soprattutto un discorso di abitudine, cioè si dà per scontato che questa zona, che quest'area sia appannaggio delle mamme, ma bisognerebbe cercare appunto di forzare questa casella, perché non è che le mamme sono tutte disoccupate, come si prendono del tempo loro, ogni tanto potrebbero farlo anche i padri. Sì, ma credo che poi a monte il punto sia quanto l'educazione di un figlio sia condivisa dalla coppia nei momenti al di fuori della scuola. E oggi noi viviamo un po' in questo grande mito che Rousseau ci ha un po' instillato, che tanto la scuola serve solo a istruire, quindi vado per farmi dire se mio figlio va bene o va male, quindi tutto diventa istruzione, mentre il buon selvaggio crescerà da solo perché tanto è buono. Non è vero, è selvaggio e non è buono, e quindi bisogna mettersi d'accordo papà e mamma su quali sono gli obiettivi educativi su cui si sta lavorando a casa, e in continuità faremo lo stesso a scuola. Ma io come faccio a chiedere la disciplina della terzina dantesca a un mio alunno se un ragazzo di 17 anni non si rifà ancora il letto e nessuno glielo dice? Quindi, come sempre, si tratta di fare una grande alleanza con i genitori, in modo da non fare quelle guerre assurde in cui loro non sopportano se il figlio ha avuto un brutto voto, perché oggi se hai un brutto voto sembra che la tua vita sia condannata, e invece dire: signori, siamo impegnati nello stesso grande lavoro di aiutare vostro figlio a fiorire al meglio, e questo comporta, come ogni parto, dei momenti dolci ma anche dei momenti aspri in cui sono coinvolti papà e mamma insieme. Intanto vi segnalo che nella nostra pagina Facebook e nella nostra pagina su Radio 24 abbiamo intervistato Antonio Iaconiani, che è preside del liceo classico Bernardino Telesio di Cosenza, che da quest'anno ha introdotto i colloqui via Skype, quindi ascoltate un po' quello che ci ha detto, perché anche questa è una nuova frontiera, no? Per cercare di avvicinare i genitori cosiddetti incasinati, continuiamo a utilizzare questa etichetta. Alessandro, prima di salutarci però, cioè, com'è questo padre visto dalla cattedra? Ma guarda, io vedo dei padri che un po' per il fatto che ormai la donna ha chiaramente occupato ruoli che tradizionalmente erano occupati dai maschi, sono un po' smarriti sulla loro identità virile e maschile, perché si rendono conto che effettivamente la donna può fare anche a meno di loro. Quindi c'è da un lato una sorta di smarrimento, c'è chi reagisce a questo smarrimento interrogandosi su qual è l'elemento specifico della paternità nell'educazione, e lo riassumo così: mentre quando un papà prende il bambino piccolo in braccio, lo tira in aria, lo lancia in aria, la mamma dice attento, attento, perché? Perché la madre è la madre terra, il grembo lo tiene attaccato alla terra, mentre il padre lo lancia nel vuoto e poi lo riprende. Allora mi sembra che ci siano alcuni che abbiano ripreso questo loro ruolo tipicamente maschile di lanciare il figlio nel futuro, quando invece è giusto che la madre protegga e contenga. Un grazie davvero ad Alessandro D'Avenia, e a proposito di nuovi libri, segnatevi questa data, 3 ottobre, e segnatevi anche questo titolo: Sono puri i loro sogni, perché questo è il titolo del nuovo libro di Matteo Bussola, dove Matteo di fatto tocchi tantissimi degli argomenti centrali di questa puntata. Sì, sì, in questo libro parlo proprio degli stessi argomenti che abbiamo appena affrontato con Alessandro. Il libro in sostanza è una specie di lettera che io scrivo ai genitori, dunque anche a me stesso, nel tentativo di capire questo atteggiamento che noi stiamo sviluppando sempre di più nei confronti della scuola, questo atteggiamento di sfiducia quasi nei confronti degli insegnanti, ma soprattutto è il tentativo di indagare come spesso, senza accorgercene quasi, noi arriviamo a sovrapporci ai nostri figli, a metterci davanti per evitare che inciampino, per risparmiargli gli ostacoli, per risparmiargli i brutti voti, no? Le difficoltà, che poi in realtà sono tutte cose che aiutano a crescere. E allora la riflessione che io pongo in questo libro è semplicemente quella di considerare che alla fine abbiamo tutti lo stesso obiettivo, quello di formare gli adulti che saranno, non di stare un passo avanti a loro nel tentativo di proteggerli, ma un passo indietro per essere pronti a sostenerli se cadranno. Insomma, la differenza è sostanziale. Sono pure i loro sogni. Se volete un assaggio, andate nella nostra pagina Facebook, perché lì c'è già la copertina, che tra l'altro è molto bella. Padri eterni. Mi ricordo da bambino che mio padre era spesso arrabbiato con me e non sapevo perché. Ritornavo dalla scuola verso 1:40 e la fame era tanta, con mia madre che diceva: che c'è? Lorenzo, dimmi che c'è? Come è andata? Come mai non mi dici mai niente? Ma che razza di gente questi figli che ho? Certe volte non so cosa ho fatto per vedervi dire sempre di no. Non lo so, non lo so, ma ti droghi? Fai vedere le braccia. Ma ancora Padri Eterni, Matteo Bussola, Federico Taddia e Giovanotti, che ci introduce nell'argomento con il suo pezzo, un Giovanotti di qualche anno fa ormai, con il suo Mario, dove però appunto una canzone dedicata al padre. E perché? Perché lanciamo oggi una nuova rubrica dove dovremo prendere appunti, Matteo. Sì. Ho la penna in mano. Perfetto, perché saranno proprio i figli, i ragazzi e le ragazze a darci dei consigli. In ogni puntata ci sarà appunto un figlio che darà un consiglio ai papà. Quindi noi in questo caso non parleremo, ma ascolteremo. Ciao a tutti papà, io sono Tommy, ho 17 anni e vivo a Riva Ligure, che è un paesino vicino a Sanremo. Allora, dovete capire che quando si instaura una discussione fra me, cioè noi, e la mamma, il vostro ruolo è cruciale. E questo lo sapevate già, perché ve ne rendete conto. Ma vi si devono aprire nuovi orizzonti, dovrete mettere nuova carne al fuoco nella discussione. Il vostro ruolo non è semplicemente quello di appoggiare la mamma e dici: sì, infatti ha ragione, dovresti fare così. No, voi dovreste provare a appoggiarci un po', a dire perché anche noi abbiamo fatto questa cosa, a cercare di far ragionare nostra mamma, non solamente dopo, quando magari ci ripensate dopo con lei. No, dovreste pensarci un po' anche con noi, rendere la discussione aperta, non chiuderla dove avete sempre ragione voi. Provateci un po', provateci. E insomma, Tommy ci chiama in causa. Cioè dice: dovete esserci durante le discussioni. Beh, allora, intanto mi piace moltissimo questa cosa delle piccole pillole da ascoltare. Facciamone tantissime, perché credo che l'ascolto sia la prima cosa. No, quello che dice Tommy è particolarmente interessante per me, perché, come dire, in qualche modo mette in campo una sorta di inversione di tendenza, no? Cioè invoca l'aiuto di noi padri di fronte alla mamma che proibisce. Quindi diventa il padre quello che ha il compito di sostenere, ed è abbastanza interessante. E per il resto, che dire, sì, ha ragione su tutta la linea. Credo che noi a volte non è che lo facciamo per, come dire, per pavidità o per, ma semplicemente perché a volte si ha anche la necessità di non contraddirsi davanti ai figli, soprattutto quando sono piccoli, però. Un po' ecco, no, anche quando sono grandi, che comunque magari arrivi a discussioni in corso, ti sei perso i preliminari e hai paura anche, no? Perché quella parola in più, quella parola in meno può anche andare a spostare un equilibrio che non conosci, perché magari sei arrivato appunto all'ultimo minuto. Però Tommy ci chiede di esserci, anche un po' di essere alleati, perché tra le righe si chiedeva anche questo, però insomma di esserci portando contenuti, non solo quelle mezze parole o delle lallazioni così per far finta di esserci. Continueremo, anzi aspettiamo i vostri consigli, ragazze e ragazzi. Potete farlo attraverso la pagina Facebook dei Padri Eterni, oppure anche via email ce li potete inviare con i messaggi vocali a padrieterni@radio24.it. Adesso invece è il momento di andare a scoprire cosa fare nel weekend. Partiamo venerdì mattina e sabato sera sei di nuovo a casa per uscire con i tuoi amici. Cosa c'è tra la scuola? Ma salti, parlo io con tua madre. Vai, te lo chiedo per piacere. Non farlo per me, fallo per te. Non farlo per me, farlo per te. Questo era Claudio Bisio nello spettacolo teatrale ispirato al libro Gli Sdraiati di Michele Serra, e lo useremo per introdurre un po' questi spazi di vita insieme, soprattutto nel weekend, e vi daremo dei consigli su situazioni belle da vivere insieme, padri e figli. Matteo, cosa hai trovato questa settimana? Ma ho trovato una fiera molto interessante, che peraltro è una delle principali fiere di settore. Si chiama Modena Nerd ed è una due giorni all'insegna del divertimento e della cultura pop, potremmo così dire, ma soprattutto all'insegna dei fumetti. Ah, qui giochi in casa, che è un po' un altro dei tuoi campi. Qui gioco in casa, fra l'altro ne approfitto insomma per dire che io sarò ospite oggi pomeriggio a Modena Nerd, ed è una fiera che risponde al bisogno di mantenersi, potremmo così dire, stupiti come bambini, appassionati sempre e comunque, seduti dalle storie, dal gioco, dai videogiochi. Come ospiti ci saranno star di YouTube, fumetti da comprare, soprattutto moltissimi disegnatori, sfilate di cosplay. Insomma, quello che ti piace a Modena Nerd probabilmente c'è come padre, ma soprattutto quello che può piacere ai figli. Fiere come questa per me valgono la pena di essere frequentate insieme, perché credo che poche cose come il fumetto possono costituire dei veri ponti generazionali. Mm-hmm. È vero, perché insomma è proprio un anello di congiunzione il fumetto. Ne riparleremo sicuramente di questo argomento. Io invece voglio proporvi un museo, si chiama il Museo delle C'era una volta, che è un museo molto particolare, un museo che è stato di fatto ideato da un insegnante che ha raccolto per l'intera vita, una collezione di 5.000 pezzi, ha raccolto per l'intera vita quelli che sono i segni della generazione passata, quindi un museo molto particolare, si trova a Valle San Bartolomeo, che è una frazione di Alessandria. Museo della gambarina.it è il sito per tutte le informazioni. Sono quei musei dove è un'altra volta, un altro ponte generazionale, dove un papà può dire: vedi quell'oggetto, io l'ho visto, io l'ho toccato, serviva a quello. Quindi porta a immaginari, porta ad evocare un passato che però ti racconta a te come papà, no? Credo che sia importante anche nei confronti dei propri figli, così mettere in mostra la parte anche più intima, no? Quella che, in cui escono anche le emozioni, e ambienti come questo sicuramente permettono di farlo. Tra l'altro vi ricordo che invece nella nostra pagina Facebook ci sono un sacco di segnalazioni belle su cosa si può fare nel weekend, che voi ascoltatori ci avete mandato, tipo c'è una bellissima idea sul come trasformare la propria casa in un parco giochi, ho visto che insomma, per chi vuole passare il weekend col proprio figlio in casa, lì ci sono delle ottime dritte. Insomma, aspettiamo i vostri consigli. Adesso invece, visto che di papà si parla tanto, vi presentiamo un seminario che si terrà a Parma il 22 e 23 settembre, la reinvenzione della paternità, seminario sui nuovi padri e la ricerca di nuove forme ed esperienze di genitorialità, e lo andiamo a scoprire insieme a Marco De Rio, che è un sociologo dell'Università di Parma, fa parte del coordinamento scientifico del seminario ed è membro dell'Associazione Maschile Plurale. Buongiorno Marco, benvenuto a Padri Eterni. Buongiorno a voi, grazie di questa occasione. Buongiorno Marco. Un programma ricchissimo venerdì e sabato. Da cosa nasce la necessità di riflettere su questa tematica? Cos'è questa reinvenzione della paternità? Ma l'idea di questo seminario nasce da un bisogno e da una constatazione. Il fatto che negli ultimi decenni si è parlato, si è scritto, si è comunicato molto attorno al tema della paternità, ma attraverso delle categorie che potremmo riconnettere all'idea della crisi della figura paterna. Quindi si è parlato di invisibilità, di scomparsa, di assenza, di eclisse, di evaporazione del padre, eccetera. Quindi diciamo tutta una serie di termini, di immagini legate un po' a una mancanza. Io lavoro molto con padri, faccio gruppi di padri, incontro padri, intervisto padri, e ho un altro punto di vista, cioè ho l'impressione che nella quotidianità, nelle pratiche quotidiane stiano emergendo invece esperienze di paternità nuove, di padri che sono in gioco con i corpi, gli affetti, le emozioni, i sentimenti in maniera nuova, e secondo me oggi c'è un bisogno molto forte di provare a raccontare le trasformazioni che accadono un po' nelle pieghe del quotidiano. Quindi da qui l'idea da una parte di fare il punto con alcuni tra i maggiori studiosi e studiose di queste tematiche di genitorialità e di paternità, e dall'altra di incontrare le associazioni, le reti attive con i padri per tentare un confronto sia di ricerca sia di esperienza e di progettazione. Questo discorso dei ruoli, no, che torna costantemente in ballo, in realtà io non credo che si tratti tanto di reinventare reinventare il ruolo paterno, ma forse di riscoprirlo, no? Di andare contro finalmente a quest'idea che ci sia questa specie di zona sensibile, di affettività tenera, di presenza e di cura che noi siamo abituati storicamente ad attribuire alle sole madri. Tant'è che quando proviamo noi a avvicinarci a questo territorio, credo che Marco forse potrà darmi conferma in questo senso, nel momento in cui degli uomini o dei padri provano a farlo e a forzare queste categorie, vengono soprannominati mammi, che è una parola che io odio dal profondo. Sì, sì, sì, concordo assolutamente. Sì, ci sono due questioni. Una, che certamente i nuovi padri, cioè quelli che si riconoscono un ruolo di paternità responsabile, che vogliono essere presenti fin dalla gravidanza, dalla nascita, dai primi mesi, primi anni, seguire la vicenda appunto straordinaria della crescita di un bambino, di una bambina, e certamente si confrontano con una mancanza di tradizione e formazione, cioè non c'è stata una trasmissione generazionale di padre in figlio per come essere padri in questa maniera. Quindi questa è la prima difficoltà. L'altra è quella che suggerivi tu, che c'è un confronto in qualche modo con la figura delle madri e sembra quasi che se un padre, un uomo, si metta in gioco a cambiare dei pannolini, a pulire un sederino, a dare da mangiare, a occuparsi degli affetti, a occuparsi degli spazi, della pulizia, si è messo in discussione come sul piano della maschilità, della virilità. Qui secondo me c'è proprio un limite culturale, cioè c'è un lavoro da fare, e questo secondo me ci ricorda anche il fatto che la paternità non è solo un'avventura singolare, individuale del singolo padre, è una costruzione sociale, una costruzione culturale, quindi richiama il cambiamento dei rapporti tra madri e padri, tra genitori e figli, e in generale far posto a un'immagine di paternità, di maschilità più complessa, forse anche più ricca nella società in cui viviamo. Maschileplurale.it è il sito da dove scaricare l'intero programma della reinvenzione della paternità, i nuovi padri, le nuove madri, e rivendico anche il modo di essere un nuovo padre, anche se c'è poco tempo, anche se sei molto assente, anche se il lavoro ti porta ad avere pochi spazi con i tuoi figli, però si può trasformare quel poco spazio, quel poco tempo in un tempo di qualità, e credo che anche questa voglia, questo desiderio sia nell'ottica dell'essere nuovi padri. Grazie Marco, buon lavoro. Grazie a voi, a presto, buone cose. Padri eterni. Hai presente la luna e sabato sera? Intendo quella vera, intendo quella vera. Hai presente le stelle e le torri gemelle? Esistono più, quelle che non esistono più. E se ti parlo di calcio, e se ti suono un po' il banjo, dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel bosco, mi dici portami in centro, perché lì non c'è campo, poi fuori di testa come l'ultima volta. Siamo l'esercito del selfie di chi si abbronza. I padri eterni. Matteo, le tue tre figlie sono piccoline, ma hanno lo smartphone? No. No, assolutamente, non, perché sono troppo piccole. La più grande, Virginia, che ha 10 anni, ha un e-reader, no, di quelli lì che si usano, sì, che riesce ad accedere alla rete wireless di casa e per cui la mia vita è finita da qualche tempo, perché mi mandi i messaggini giù in studio. Però lo sanno smanettare il tuo di smartphone o quello della mamma? Allora io non ce l'ho. Io ho un iPad che sanno smanettare, ma per giocare. Mm-hmm. Ok, i miei sono più grandi, 14 e 20, quindi ciao, cioè siamo assolutamente in tre sempre, nel senso io, il figlio e lo smartphone, a volte in quattro perché c'è anche il mio, lo ammetto, quindi insomma c'è questa circolazione di informazioni plurime, ed è questo un po' il cuore del libro che esce fra un paio di giorni, scritto da Aldo Cazzullo, e tra l'altro non da solo, scopriremo con chi, inviato ed editorialista del Corriere della Sera. Il titolo: Metti via quel cellulare, un padre, due figli, una rivoluzione. Ciao Aldo, benvenuto ai Padri Eterni. Ciao, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Non so se partire dal padre, dai figli o dalla rivoluzione. Cosa è un inno d'amore, è un appello, può essere anche una sorta di rassegnazione finale. Cosa racconti in questo libro scritto a più mani? È un dialogo. Io dico ai miei figli la frase che ho detto loro più spesso negli ultimi 10 anni: metti via quel cellulare. La rete è il più grande incoglionimento di massa nella storia dell'umanità. E loro mi rispondono, mi dicono: la rete e il cellulare sono parte della nostra vita, sono parte del nostro futuro. E il telefonino a volte è anche un alibi per voi genitori che non riuscite più a parlare con i figli, quindi mettete loro in mano il telefonino come a voi da piccoli vi mettevano davanti alla televisione. Però è dura da padre essere lì davanti a tuo figlio e non ti guarda perché guarda lo schermo, non ti parla perché sta ascoltando un messaggio vocale, con le dita fa strani gesti che ovviamente sta facendo scorrere video, cose. Tu sei lì che lo guardi, non è facile da superare quel muro. Noi siamo lì che li guardiamo, o a volte siamo anche noi chini sul cellulare, che in realtà è uno specchio e l'immagine riflessa è sempre la nostra. Facci caso, le ragazze non hanno più lo specchietto come quando eravamo ragazzi noi per controllare il trucco, si specchiano nel cellulare, e il cellulare è la porta d'ingresso alla rete che noi usiamo per far sapere quello che pensiamo, quello che mangiamo, quello che sogniamo, anche se agli altri in realtà non gliene importa nulla. Ma il libro parte proprio così, andiamo in pizzeria e davanti mi vedo non i volti amatissimi dei miei figli ma il loro cellulare. Andiamo in una pensione, in un albergo, ovunque andiamo la prima cosa che chiedono è la password del wifi. Non si può vedere così, le vacanze non sono più vacanze, le cene in famiglia non sono più cene in famiglia. E quindi io parto proprio con un rimprovero e loro mi rispondono seccamente, poi dialogando le posizioni ovviamente un po' si ammorbidiscono, in parte io do ragione a loro, in parte loro danno ragione a me, infatti alla fine dico: vabbè, mi avete convinto, quest'anno compriamo l'iPhone 7, e loro mi informano che invece nel frattempo è già uscito l'iPhone 8, però mi hanno promesso che si fanno bastare quello che hanno. Sì, io vorrei dire che condivido la posizione di Aldo. Oggi, fatalità, su Robinson di Repubblica c'è in edicola proprio un articolo scritto dal sottoscritto che parla proprio di questo aspetto. Però, appunto, credo che, come diceva giustamente Aldo Cazzullo, siamo anche noi adulti spesso a fare la stessa cosa. C'è una vignetta di Mauro Biani che ha girato moltissimo in rete questa settimana, in cui c'è proprio questo bambino che va a scuola pronto per il primo giorno e, salutando il padre, gli dice: allora papà, io vado, vi lascio 5 ore da soli davanti a internet, mi raccomando, posso fidarmi? Mi ricordo una bellissima vignetta di Altan che cito nel libro, è record. Ogni cellulare possiede un italiano. Infatti non c'è nulla di peggio, ad esempio, delle chat dei padri dei ragazzini che vanno nella stessa classe, no? E questi padri chattano in modo furioso, secondo me molti anche per cercare di rimorchiare le mamme, oppure se la prendono con i professori. Non deve essere facile, non è facile per i genitori, figurati per i professori, per gli insegnanti, gestire 25 adolescenti, farli stare 5-6 ore senza la rete, senza il cellulare, è durissima. Infatti ogni ministro cambia idea, prima dicono no, non si possono usare, ma sì, si debbono usare. Ovviamente non può decidere il ministro, deve decidere il preside, devono decidere gli insegnanti, e i ragazzi però devono anche comportarsi bene, perché vai a sapere se hanno il cellulare per cercare la poesia di Dante che non c'era sul libro, o se invece stanno andando a cercare videogames, se sì. Non peggio, perché diciamoci la verità, le due occupazioni che occupano più tempo in rete sono i videogames e il porno, due cose che si fanno da soli, altro che social, altro che solitudine. Per questo che sono preoccupato, perché io mi ricordo le mie compagne di banco con il diario chiuso col lucchetto, e noi che sognavamo di sapere cosa c'era scritto dentro. Adesso le ragazzine affidano alla rete le loro cose più intime, fidando che tanto ci sono gli amici dall'altra parte, ma la rete non è buona, anzi, la rete spesso tira fuori il peggio di noi. Assolutamente, credo anzi che questa apertura dei cellulari a scuola sia un po' una scorciatoia per non affrontare realmente il problema. L'educazione digitale è altro, poi puoi averli ogni tanto, in qualche ora, in qualche momento, lo smartphone in classe, se serve, se diventa attività, ma averlo lì come supporto continuo credo abbia grossi rischi. Aldo, però ti rigiro un attimo la prospettiva, però questo smartphone non può essere anche una porta privilegiata invece di contatto con i propri figli? Perché? È quello che dicono loro, dicono: guarda, pensa quante volte abbiamo fatto serata grazie al telefonino, cioè fatto sentire la canzone di De Gregori che ascoltavi dei ragazzi, noi ti abbiamo fatto sentire la nostra musica, facevamo delle gare sciocche, tipo la mamma e Francesco erano a dieta tutte e due, quindi io facevo, io Rosana avevamo Google e cercavamo quante calorie ha il cetriolo, pochissime, quante calorie ha lo strutto, tantissime, cioè è un gioco che abbiamo fatto tante volte, ma qualsiasi famiglia l'ha fatto, cioè il cellulare può anche servire a unire le generazioni. Metti via quel cellulare, un padre, due figli, una rivoluzione, questo è il titolo del libro che verrà presentato tra l'altro proprio esempio, oggi pomeriggio alle 17 in piazza San Marco a Pordenone Legge, tra l'altro oggi domenica 17 settembre è anche il compleanno di Aldo, quindi Aldo, buon auguri. Grazie, auguri. Ahimè, purtroppo sì. Grazie, ciao. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Buona domenica. Ciao, buona domenica. Anche a voi. E termina qui questa puntata dei Padri Eterni, un grazie ad Andrea Roccabella, la parte tecnica, Miriam Lucchetti, Andrea Spenusi in redazione. I vostri messaggi che aspettiamo, padrieterni@radio24.it oppure nella nostra pagina ufficiale di Facebook, e ancora radio24.it per riascoltare la puntata e trovare tutti i contributi extra. Ma come sempre, prima di salutarci, Matteo, hai preparato una lettera anche oggi, vero? Ho preparato, sì, una lettera anche oggi. Molto particolare, molto particolare. Come sempre si prende spunto dall'attualità e poi l'attualità la trasformiamo in questo scritto. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, sempre con i Padri Eterni. Lettera a Papa Francesco. Caro Francesco, so che questa settimana ti sei fatto un occhio nero sbattendo contro il vetro della tua papa mobile, mentre salutavi un bambino. Come ti capisco. Sapessi quanti spigoli ho preso io, quanti talloni mi sono infilzato sul nonno pig di plastica dura che le mie figlie abbandonano sempre in giro. Per non parlare di quante volte mi sono schiantato sulla porta del corridoio nel tentativo di prenderle al volo. A noi padri, santi o meno, capita spesso di inciampare, quando ci perdiamo a guardare la vita che cresce. E per fortuna abbiamo imparato a non vergognarcene. Abbiamo capito che si può vedere bene anche con un occhio nero, se questo è il risultato di non essersi tirati indietro nel momento che conta. Sono sicuro, però, che a te non sarà uscita nessuna delle parolacce che mi ha tirato fuori l'incontro notturno col monopattino di mia figlia. In cambio della tua assoluzione, ti offro un armadietto pieno di cerotti coi dinosauri. Se te ne servisse uno, telefona. E se ti rispondesse una bambina, tu dille solo: sono Francesco, ho bisogno di un cerotto per l'occhio. Lei capirà il perché.